senza riempirmi con tanti complimenti per la mia grande vanità, per la mia grande vanità. Per la mia grande vanità.